credito, perché ne avevamo uno di alla Fagiana che avevamo aperto la voliera e era stato ricoverato. Abbiamo aperto la voliera, dopo un po' vai lì a controllare se è uscito, no? Vai lì, guardiamo dentro. Ma sì, è andato, non c'è più. Poi ci sentivamo gli occhi addosso, abbiamo iniziato a guardare in giro e c'era un ramo che fa parte dell'arredamento della voliera. Questo ramo che andava su di lì. E in punta c'era lui, così che ci guardava. E faceva troppa impressione perché era dello stesso colore del legno, fermo immobile con le orecchie anche, cioè le orecchie, Sì, i potreste essere ciuffettini, voi lo fotografate in tutte le dentro. salse, nel senso che praticamente ho fatto piccoli, ho fatto quasi dentro al nido perché era un nido aperto. E ti dico, la sera prima li ho visti uscire, sono tornato il giorno dopo a cercare i piccoli, ma il bosco era un bosco grande da qui a là, no? Ho detto, se dentro lì lo trovo. Sì, 2 ore e mezza si è piegato. Poi dalla disperazione stavo andando via, ma dovevo tirare su lo zaino, dove ho messo lo zaino era sopra. Gli ho fatto la foto perché proprio è talmente mimetico, manco lo vedi.